Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. La banda Bonno di Bernard Thomas, capitolo sesto, parte seconda. I quotidiani del primo marzo escono con titoli impressionanti: l'arresto dell'assassino, un bandito dell'auto in prigione. Parallelamente Guichard fa girare in tutti i commissariati di polizia una circolare intimidatoria: tutte le volte che i guidatori di automobile cercheranno di sottrarsi con la fuga alle loro responsabilità, gli agenti non dovranno esitare a forare a sciabolate gli pneumatici del veicolo. Fa tirare grandi foto dei nemici pubblici e le invia in tutta la Francia, con una seconda nota: attaccare queste foto su un muro bene in vista e che permetta di indietreggiare da 1,50 m a 2 m. Guardare i lineamenti uno per uno, particolarmente la forma del naso, cavo, dritto o no, l'inclinazione e l'altezza della fronte e i dettagli dell'orecchio. Notare in particolare: 1. Per quel che riguarda Bonneau, il naso concavo a base rialzata, la protensione della mascella, la fronte scoperta, gli occhi piccoli e blu. Segnaliamo anche una piccola verruca sulla guancia destra tra l'orecchio e il naso. 2. Per quel che riguarda Caroui, le narici larghe e spesse, la bocca molto grande e le palpebre superiori coperte. 3. Per quel che riguarda Garnier, la collocazione irregolare dell'orecchio sinistro più staccato in basso che in alto, la notevole lunghezza delle sopracciglia, lo spessore delle labbra, il bel disegno del naso. Segnaliamo anche 2 piccole cicatrici sullo zigomo destro, tra occhio e orecchio, e un'altra cicatrice di circa 1 cm in alto e a sinistra sulla fronte, a 4 cm sopra il sopracciglio. Jouin, Gilbert, Guichard si avvicinano a Eugene, lo mettono a confronto assieme a Deboe, con Detwiller, il garagista di Bobigny, amico di Caroui, che ha riparato la Delaunay di Rouet-Ordener, e con Rimbaud, il chincagliere, a Livry, operaio addetto ai traslochi e poi meccanico a Pavillon-sous-Bois, amico di Garnier e accusato di fornire alla banda le armi da fuoco. I risultati non sono molto probanti. Permans, guardia del corpo di Cabi, crede a sua volta di riconoscere Dieudonné, che nega accanitamente. Gli altri testimoni di Rouet-Ordener non lo riconoscono. Annancy, un esperto contabile, afferma di averlo visto il 21 dicembre tra le 16 e le 17 da un falegname, ma la mattina la madre di Eugene conferma che suo figlio è stato da lei quel giorno. È partito da Nancy solo la sera del 25 per raggiungere sua moglie e porre fine a un litigio che li aveva separati. Non si bada molto a questa testimonianza, è quella di una madre. Si bada invece a quella di Cabi, che ha però riconosciuto un mese prima, in modo altrettanto formale, in Garnier il suo assassino. Si bada anche all'esistenza di un rapido tra Parigi e Nancy che collega le due città in 4 ore, subito dopo l'attentato di Rouet-Ordener. Eugene, saltando sulla vettura che punta su Dieppe, avrebbe potuto darci dentro e trovarsi in Lorena prima delle 16. Improbabile? Senza dubbio. Ma si tiene un buon sospetto. Non lo si lascerà facilmente. Deboe, lui, non sa granché. Madame Boucher, la sarta, ancora meno. Quanto a Louise, beato chi può dire quel che è avvenuto tra Juin e lei il 2 marzo 1912. Notiamo semplicemente che la prima offerta da parte delle assicurazioni era di 125.000 franchi per chiunque avesse aiutato la cattura dei banditi. Notiamo anche che fu rilasciata il giorno stesso, 5 giorni dopo l'arresto. Rirette, per fare un esempio, non ha beneficiato di tale clemenza. In quello stesso 2 marzo, giorno di martedì grasso, l'agente di polizia Garnier ha diritto a funerali grandiosi a Notre-Dame de Paris. Roussel, presidente del Consiglio Municipale, pronuncia un discorso molto applaudito, nel corso del quale deplora l'insufficiente armamento a disposizione dei Flic, che non hanno diritto in tutto e per tutto che a una sciabola. Le Pen gli fa eco, chiedendo per i suoi uomini armi più efficaci. Si stupisce anche, dura Lex sed Lex, che i condannati all'ergastolo non siano mandati tutti in Guyana, col pretesto fittizio che costa troppo al tesoro. La maggior parte sono alloggiati, nutriti, lavati a spese del contribuente, all'Île de Ré. È inammissibile. Su questo punto Aristide Briand, ministro della giustizia, ritiene opportuno rispondere che su 391 condannati solo 14 sono mantenuti in Francia per ragioni di salute. Del resto sono allo studio dei provvedimenti. Ma gli avvenimenti si succedono. Il 9 marzo Juin riceve la visita di un uomo che conosce bene, vecchio abitué della casa Tasoir, più conosciuto a Montmartre col nome di Georges l'usuraio. Quell'onesto commerciante ha qualche peso sulla coscienza e Juin lo sa bene. Se Juin consentisse a lasciar perdere quelle sciocchezze, potrebbe forse metterlo sulle tracce di Bonneau, o perlomeno dei titoli di Rouet Ordener. Effettivamente David Belloni è tornato da Amsterdam con i Jonks. Ha proposto a Rodriguez di interessarsi dell'affare e ha avvertito Bonneau della sua presenza. Jules, dal canto suo, ha accostato lui stesso Georges l'usuraio a Place de la Nation e gli ha chiesto se poteva smerciare la mercanzia in piccole quantità. Gli ha presentato David e Rodriguez, che sono incaricati dell'operazione. Un primo fascio di titoli è già stato consegnato all'usuraio al caffè Chez Marcel, Boulevard Roquechouart. Il prossimo incontro deve avvenire l'indomani, sui Grand Boulevards. Il 10 marzo, cinque ispettori travestiti da onesti borghesi passeggiano su Boulevard. Bonneau e Garnier idem, le mani in tasca, lo sguardo vigilante. Ciascun gruppo ignora la presenza dell'altro. L'usuraio avanza lentamente, come se passeggiasse. Mima la sorpresa vedendo avvicinarglisi David e Rodriguez. «Quanti potete prendercene oggi?» chiedono. «Ho fatto un cattivo colpo in borsa». Dopo infinite trattative avviene una transazione. Georges l'usuraio ne prende per 2.500 franchi. Da loro un acconto di 500 franchi, porterà il resto domani. Concluso l'affare, Jules e Octave si perdono nella folla. Si recano in una stamberga miserabile, al 6 di Rue Corlot, dietro Montmartre, in cui David e Rodriguez devono raggiungerli. Arrivano senza rendersi conto di essere pedinati. David effettua la divisione, 100 franchi per Jules e Octave, 340 per sé, 60 per Rodriguez. È ingiusto, Rodriguez è profondamente turbato. Jules e Octave non fanno commenti. Sono talmente in bolletta che anche pochi franchi sono i benvenuti. Permetteranno loro di sopravvivere in attesa del prossimo grosso colpo. È questa la solo loro ossessione. All'apice delle avversità i due uomini sogghignano, certi di essere invincibili. Hanno scoperto il segreto della loro forza, il terrore che ispirano. Sono i padroni della strada, sono l'orco e il baobao. La polizia non osa nulla contro di loro perché ha paura. «Eccoti ora compromesso come noi», dice ridendo Jules Rodriguez. «Vieni con noi». Si prendono le pistole, si scende sul boulevard e si ammazza il più possibile. «Scommettiamo?» dice Octave. «Sì, certamente», dice Rodriguez. «Ebbene, su, andiamo». «Faremo ancora a tempo a batterci», dice Rodriguez. «Si può andare alle Havre e di là in Australia, in Brasile, in qualsiasi posto, tutte terre incolte in cui fecondare una vera colonia. Un buon compagno me ne ha già parlato. Non è più qui per parlarne», dice Jules con tristezza. «Non è tutto qui», taglia corto David. «Per il resto dei titoli si fa come si è detto?» David e Rodriguez escono dalla casa, i poliziotti li seguono. Jules e Octave si allontanano a loro volta qualche minuto dopo. È la seconda volta che sfiorano gli ispettori di Juin senza accorgersi della loro presenza. David e Rodriguez si recano alla Gare du Nord, dove depositano i titoli al bagagliaio, poi rientrano a casa soddisfatti di aver compiuto il loro dovere. L'indomani tornano alla stazione, mentre Rodriguez sale sul treno di Lilla, David recupera i titoli al bagagliaio senza immaginare che l'uomo che glieli porge non è un impiegato di ferrovia, ma un ispettore. Viene pedinato fino al boulevard, dove deve rivedere l'usuraio. Lì viene acciuffato. Ha un bel protestare la sua innocenza e rifiutarsi di dire il suo nome. I servizi antropometrici fanno presto a riconoscere in lui Belloni David, nato nel 1885 e schedato a Bruxelles nel 1907 col nome di Eduard de Vang e a Lilla nel 1908 per insubordinazione. Quanto a Rodriguez, altri due ispettori lo pedinano quando scende dal treno, lo seguono fino alla stanza e lo beccano insieme alla sua amichetta Anna Lecoq. Perquisendo si scopre un laboratorio completo da falsario, pezzi da 10 franchi perfettamente imitati, quanto a peso e suono, e pronti ad essere indorati. Piombo, antimonio, ammoniaca, in breve un materiale che dimostra che Rodriguez non doveva trarre molti proventi dal suo paziente lavoro. Ci sono inoltre lettere compromettenti per i sospetti di Louis Ordener. Lo si riporta a Parigi. Interrogato senza sosta, tiene duro per una settimana. L'ottavo giorno, il 19 marzo, scoppia in singhiozzi e racconta tutto, compreso il fatto che Dieudonné si trovava in Rue Ordener. Glielo hanno detto Bonneau e Garnier. La sera stessa, in preda ai rimorsi, tenta di suicidarsi e ritratta. No, Dieudonné non era in Rue Ordener. Lo ha detto perché non sapeva più quel che diceva, incalzato com'era di domande. È troppo tardi, malgrado le smentite di Rodriguez, si continua a considerare Dieudonné il capro espiatorio. I giornali escono ancora una volta con titoli enormi. Una collera immensa divampa allora tra gli anarchici. Valet, che abita in Avenue de Saint-Ouen con un'amichetta, riprende il contatto con gli amici. Va a trovare Bonneau nel suo nuovo alloggio in Rue Ordener. Jules è ritenuto dalla portinaia un correttore di bozze dell'Illustration e offre i suoi servizi. Fino ad allora si era tenuto lontano da tutto, non ha mai rubato, non è mai stato un illegalista, ma dal momento che la polizia abusa del suo potere e colpisce a caso e arbitrariamente, non può restare indifferente. Passi ancora per l'amico Belloni, ma Eugene, ma Victor, l'onore, l'onestà in persona. In nome di che è stato gettato alla Santé, anche lui andrà in prigione un giorno o l'altro. Allora tanto vale andarci per qualche cosa, con le armi in pugno. Non gli resta che testimoniare. Contro una società abietta, il denaro non lo interessa, l'avvenire non lo interessa più, non resta che morire. Per la prima volta da tempo Bonneau è impressionato, sente che questo pel di carota è di qualità superiore alla sua. Forse si tratta del coraggio fisico di quest'uomo che ha aspettato i giorni cattivi per venire a condividere i loro rischi, mentre non condivide i loro obiettivi. In ogni caso Bonneau non ha mai incontrato un uomo così sincero. In Rue Ordener arriva anche il povero Sudì. Con Rirette, ha perso tutta la sua famiglia, sputa i polmoni, tenta ancora di farlo spavaldo, ma il cuore non partecipa più. Resta lunghe ore prostrato, incosciente, in quel che si fa e si dice intorno a lui, fino al momento in cui, per esempio, Monnier, che dopo il fallimento di 2 spedizioni a Hall è venuto a raggiungerli, abita talvolta lì, gli batte sulla spalla e lo invita a cena. Allora escono tutti e 4. 2 davanti, altri 2 a 100 metri di distanza per difendersi meglio in caso di attacco. Louise Dieudonné si trovò un po' sperduta subito dopo la liberazione. Non osava più, dato lo scandalo, affrontare la gerente di Ruinolé. D'altro lato era in rotta con l'Orulò e gli amici di un tempo si nascondevano da quando erano diventati una banda. Ma ebbe la fortuna di incontrare David di ritorno da Amsterdam e tramite lui Raymond. Cenarono a tu per tu dopo aver accuratamente controllato che non era seguita. Allora avvenne qualcosa di strano, di imprevisto, di miracoloso. Prima, parlando di Eugene, lui ruppe lacrime. A sentirlo era l'essere più straordinario che avesse incontrato, il più dolce, il più saggio, il più intelligente, e poi parlava di lei col rispetto che solo Eugene, un tempo a Nancy, le aveva manifestato. La ammirava, ne fu lusingata. Che importava se misurava solo 1,54 m? Il suo cuore era grande. Tutti lo ritenevano un cinico assassino. Bene, non era vero. Parlò della bellezza del mondo di domani, nuovamente con le lacrime agli occhi, poi recitò poesie. Mon ami est un infant en robe de paradis et la ville tentaculaire. Nemmeno Eugene aveva detto a Louise parole del genere con una voce come quella. Oh, non era forse amore quello che Louise provava per lui, ma era riuscita a commuoverla. Lui la trovava così bella, buona e generosa che non poteva non essergli riconoscente. Così, quando le domandò, arrossendo, se voleva, se accettava, lei non sapeva dove andare. Le prese la mano e improvvisamente, senza nemmeno saperlo, la baciò sul collo, dicendo quella breve frase che era nuova per lui: «Ti amo, Louise, ti amo». Lei accettò. Lo portò in Rue de la Tour d'Auvergne dall'amico Jourdan, che era provvisoriamente in viaggio. Furono 3 settimane d'incanto. Lui vedeva meno i compagni, era distratto, non pensava che a lei, a quello che avrebbero fatto la sera. Per la prima volta in vita sua, Raymond La Scienza conobbe l'amore, il grande, con la A maiuscola, e non riusciva a capacitarsene. A dire il vero, non era mai stato a letto con una donna prima di Louise. Era vergine. Mentre Guichard affiggeva i suoi comunicati, mentre i giornali risuonavano del rumore loro nome, lui andava tranquillamente a teatro e al concerto Colón, come se fossero stati una coppia, in tutto simile alle altre. A tutti e due piaceva moltissimo la musica, discutevano accanitamente se fosse il caso di preferire al romantico Zuccherosso di Franz Lehár, il cui Conte di Lussemburgo aveva fatto piangere Louise all'Apollo, l'ardore più realista della cavalleria rusticana di Mascagni, che aveva eccitato Raymond, che non smetteva mai di fischiettarla. Talora, tuttavia, la realtà giungeva fino a loro, attraverso lo specchio deformante della felicità. Era allora l'aggressione improvvisa delle forze della stupidità e della laidezza. Così, un sabato andò con Louise a una di quelle marce militari che Millerand, ministro della guerra, propinava da un mese al popolo francese, e non avendo pensato che per combattere la propaganda antimilitarista e i suoi ribelli fosse indispensabile impiegare in Francia dei mezzi tragici. Nel vedere i volti estatici di questa folla, civette eccitate dall'uniforme e borghesi fieri del loro esercito, quell'esposizione di cannoni che li avrebbe difesi dai rossi, piccoli impiegati, colti dai primi sintomi di sciovinismo, questa malattia venerea degli impotenti. Raymond arrossì di collera e cominciò a biascicare insulti tra i denti. Bisognò che Louise, un po' vergognosa, lo tirasse energicamente per un braccio, verso una strada deserta. Un minuto di più e certamente sarebbero stati fatti a pezzi. Il mondo restava ancora da cambiare. Senza dubbio sarebbero stati necessari dei bagni di sangue per riuscirci. Il 15 marzo, dopo un mese di Saint-Lazare, Marie è stata a sua volta liberata. È una dura da convincere. Si è subito accorta di essere pedinata. Ha passeggiato, ha guardato le vetrine, il tempo di individuare i pedinatori, poi, bruscamente, è entrata in un grande magazzino e si è persa nella folla. Poi tranquillamente si è recata nel 15° dipartimento, in Rue Jean Hachette, dalla madre di Octave, Madame Lescure, che ha già visto qualche volta. Le due donne sono cadute piangendo una nelle braccia dell'altra. «Come va?» ha mormorato Marie. Madame Lescure ha alzato le spalle e, voltandosi per prendere un fazzoletto, «Non so, non viene spesso. Sono lì, unite dallo stesso amore, straziate dalla stessa angoscia, non capiscono. Marie in realtà ha avuto solo in prigione la rivelazione dei crimini del suo amante. Sino ad allora aveva preferito non sapere, non pensava che uccidesse la gente, se ne infischiava, era bello. Guarda, di nuovo Madame Lescure, e tutte e due riprendono a singhiozzare senza poter parlare. La povera vecchia signora si è incurvata e molto invecchiata da quel viaggio di Bruxelles, una volta, quando aveva scoperto che il suo amato ragazzo così dolce, calmo e cortese era diventato un illegalista arrabbiato. Ha letto i giornali, come tutti. Quell'assassino, quel criminale feroce e senza pietà di cui si parla è suo figlio. Sa bene lei che non ha la natura perversa che gli si attribuisce. Tuttavia, ciò che ha fatto in Rue Ordener... «Dovete aver fame», dice. E mentre una accanto all'altra sbucciano le patate, quasi senza accorgersene, si mettono a parlare di Octave. Soprattutto la madre. Un lungo, lento, tranquillo monologo in cui si parla di fasce, di pertosse, del suo povero padre che è morto troppo presto, di parole di bambini, di drammi da niente, come se evocare il passato potesse scongiurare il presente. «Per noi due è finita», dice di botto Marie, per convincersi di una realtà alla quale non crede. «Vi capisco, vi ha già fatto tanto male». L'indomani Marie, col pretesto di una visita da fare, va ad aggirarsi nei dintorni delle porte della città. I passi la portano verso i luoghi in cui un tempo passeggiavano insieme. «È finita, è proprio finita», ripete camminando, e poi bruscamente di fronte a lei, immobile sul marciapiede, appare lui, proprio come se la aspettasse. Lei si ferma, come inchiodata sul posto. Lui avanza. «Marie, Marie», ripete. «Tu sei pazzo», balbetta lei. «Vieni». Più tardi Octave stringe i pugni, sputa per terra con disprezzo quando lei gli racconta che nel corso di un interrogatorio Juin le ha offerto 100.000 franchi di premio in cambio della delazione del suo amante. Ma all'alba, approfittando del suo sonno, Marie fugge come una ladra. Non sa più che pensare. Lo ama molto, lui è così gentile. D'altra parte quegli orrori. Ha bisogno di riflettere. Torna da Madame Lescourt. Il 19 giungeva a Octave la notizia dell'arresto di Dieudonné. Anche lui non sapeva più che pensare, era sicuro solo del suo odio. Prese la penna più bella e scrisse al Matin, con qualche libertà verso l'ortografia. Parigi, 19 marzo 1912, 4:25 del mattino. Signor caporedattore, vogliate inserire la seguente. Ai signori Gilbert, Guichard e compagnia, da quando tramite voi la stampa ha messo in vista la mia modesta persona e per la grande gioia di tutte le portinaie della capitale annunciare la mia cattura come imminente, ma credetelo, tutto questo baccano non mi impedisce di gustare in pace le gioie della vita. Come avete confessato a più riprese, non è grazie alla vostra sagacia che mi avete potuto ritrovare, ma grazie a una spia che si era introdotta tra noi, Georges l'usuraio, certamente. Siate persuasi che io e i miei amici sapremo dargli la ricompensa che si merita, come ad altri testimoni troppo loquaci, e il vostro premio di 100.000 franchi offerto alla mia compagna per vendermi, che miseria, per voi così prodighi dei denari dello Stato, decuplicate la somma, signori, e io mi consegno mani e piedi a vostra signoria con armi e bagagli. Ve lo confesserò, la vostra incapacità per il nobile mestiere che esercitate è così evidente che mi ha preso la voglia, qualche giorno fa, di presentarmi nei vostri uffici per darvi qualche informazione supplementare e rimediare qualche errore voluto e non. Vi dichiaro che Dieudonné è innocente del crimine che voi sapete bene che ho commesso io. Smentisco le dichiarazioni di Rodriguez, solo io sono colpevole. E non crediate che fuggo i vostri agenti, so bene che sono loro, parola mia, che hanno paura. So che tutto questo avrà una fine nella lotta che si è impegnata tra il formidabile arsenale di cui dispone la società e me. So che sarò vinto, sarò il più debole, ma spero di far pagare caro la vostra vittoria. Attendo il piacere di incontrarvi. Garnier. Questa straordinaria lettera, che anch'essa scolpava Dieudonné, era accompagnata da un foglio di carta quadrettata sul quale, per essere sicuro di essere identificato dai servizi antropometrici della questura, Octave aveva apposto l'impronta delle 5 dita della mano destra, seguita da queste poche parole: «Zuccone di un Bertillon, Metti gli occhiali e guarda. Bertillon guardò, nessun dubbio possibile, si trattava del bandito tragico. Questo documento comparve il 21 nella stampa. Un nuovo grado nella follia era superato. Jules Bonnot non volle essere da meno. Ebbe una vampata di gelosia nei confronti del marmocchio che con questa lettera sembrava atteggiarsi a capo della banda. Prese la sua canna, la sua bombetta, quattro Browning e mentre tutti i poliziotti, tutti gli informatori erano alle sue calcagna, mentre tutta la popolazione tremava in preda all'angoscia, si recò direttamente al Petit Parisien. Entrò nell'ufficio delle informazioni generali, poggiò un revolver su un tavolo e pregò un giornalista, Charles Sauerwein, di annotare una dichiarazione. Bruceremo le nostre ultime cartucce sui poliziotti e se non osano venire sapremo trovarli noi. Carui, la cui ferita era cicatrizzata ma che continuava per prudenza o per scelta a vivere in campagna, fu a sua volta assalito da una sana emulazione. Dato che la letteratura non era il suo forte, redasse un argot, una lettera dello stesso tipo. La Francia intera esplose in una risata omerica. Si aveva un bel dire, ma quei tipi non erano dei volgari assassini. Mai nessuno aveva ridicolizzato la polizia con tale sfrontatezza. Taceremo per pudore le frasi che si scambiarono il 24 marzo mattina, Guichard, cuor di leone e il suo aiuto. Resta il fatto che dopo questo incontro Jouin, pallidissimo, rassegnò le sue dimissioni. Furono strappate in mille pezzi dalle penne. Barbetta al vento. Non si abbandona il proprio posto quando la nave è in pericolo. Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che il sole ha ridotto già. Libri ribelli.